Sento lo ciauro, un euro di Satana. Paradiso potente, sirena di mari, venti punenti, frisca pizzia, calabroni silenti, sentiti la storia e undici tenenti. Terra nitrata di ferli e di spini, terra antanchiano corcata a confini, zincola vincola zincolanzo di sta terra covovo. Solo gente continua la storia, signore e gente. Un secolo ancora non aveva passato, manco nulla, un minuto contato, lo vento s'abbucca e si scopre il cielo. Piglio, taglio, sento un ciavolo libero di Satana, sento un ciavolo bianco di Dio. Sento bruciato un libro di Satana, sento bruciato bianco di Dio. Oi, vedo che mai vorrò aggiornare. Canta il fumo che fa la tua sorte, canta il giallo della tua morte.